in primo piano. Buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno, buongiorno Irene. E torniamo a parlare di paradossi, di sprechi della casta. C'è qualcosa sui giornali di oggi? Su questo in particolare è calato uno strano silenzio. C'è invece una bella inchiesta di Libero che parla invece dell'abolizione dei vitalizi per alcuni parlamentari, quindi è comunque collegato. Sappiamo che sono misure simboliche, più che altro non salveranno i conti della nazione, però appunto danno segnali importanti se vengono attuati questi risparmi degli stipendi di chi comunque poi con le norme, con le leggi impone a noi tanti risparmi. Lo stipendio del più anziano dei barbieri della Camera arriverà a 143.000 euro. Io vorrei vedere un taglio di capelli e capire se lo merita, perché ci sarà dietro un valore aggiunto. Ti seguiamo nella rassegna stampa. A più tardi, Irene. E allora cominciamo appunto dal Corriere della Sera. C'è molta cronaca sui giornali, anche tanti altri argomenti, ma come diceva Irene ieri, magari cercherò di segnalarvi le cose più particolari che magari vi spingeranno anche a comprare un quotidiano che normalmente non comprate o appunto in edicola. È sempre un po' questa la mia speranza. Ma dicevo del Corriere della Sera, che ha la fotonotizia dedicata a quel monte crollato sulla via che porta a Cortina, nel Bellunese, e la morte di 3 turisti, e naturalmente molta cronaca. Il Corriere ha, come tutti gli altri giornali, inviato dei suoi giornalisti lì. Vi segnalo però il racconto che fa Gian Antonio Stella, che tra l'altro quelle zone le conosce bene. Lui è veneto, non è di quella zona, però conosce appunto bene tutto il disastro geologico della sua regione, ma anche dell'Italia. Ne ha scritto tante volte, proprio con Sergio Rizzo, che sarà poi ospite di Irene. Oggi il titolo del suo lungo articolo, che trovate a pagina 13, è La frana infinita, e si scopre che appunto l'allarme in quelle zone, che sono zone bellissime però con una storia geologica molto complessa, detriti, piogge, canaloni e la perenne voglia di costruire, perché naturalmente su questo panorama, su questo ambiente geologicamente molto complesso, si è inserita poi a volte anche la speculazione edilizia, gli allarmi dimenticati che si ripetono da secoli. E pensate che per esempio nel 1814, ci racconta Gian Antonio Stella, una frana nel Bellunese, nelle frazioni di Taulena e Marceana, fece 314 vittime. Sulla prima pagina del Corriere della Sera anche l'intervento che ha mandato Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica, per la riforma sul Senato. In questi giorni si è parlato molto ancora di tornare su quella riforma che ha già una sua fisionomia e prevede sostanzialmente l'addio al bicameralismo perfetto e la trasformazione del Senato, la Camera Alta del nostro Parlamento, non più in appunto Camera elettiva, ma Camera i cui membri vengono scelti e non con un voto. Secondo Giorgio Napolitano, che da sempre viene accreditato come uno dei sostenitori di questa riforma non va stravolta. E poi ci sono anche all'interno approfondimenti sulle posizioni dei vari parlamentari, ma questa è una questione che si vedrà dopo la pausa estiva. Sapete che i nostri parlamentari adesso si godranno 33 giorni di vacanza, una cifra sulla quale è scattata anche un po' di polemica. E a questo proposito vi segnalo dal Corriere della Sera un interessante articolo di Rita Querzè intitolato Il dilemma di lavorare a Ferragosto. Si parte dal caso della Electrolux, questa multinazionale che ha alcune sedi anche in Italia, che vuole produrre il suo ultimissimo modello di frigorifero, viene definito il super frigo, e dice questo è uno dei prodotti che potrebbe aiutarci a uscire finalmente dalla crisi. Ma alla proposta fatta ai 1100 operai di lavorare nello stabilimento di Susegana vicino a Treviso, soltanto 50 hanno risposto di sì, e Rita Querzè ci racconta questa vicenda. La prima pagina del Corriere della Sole 24 Ore ha due notizie, una economica e l'altra di finanza. Quella economica è che poi è più proprio di norme e tributi, ma riguarda tutte le imprese, ma anche le aziende, anche i privati, ed è la riforma del concordato e dei fallimenti. C'è stato un sì definitivo al decreto sulla crisi d'impresa e ora ci sono appunto queste nuove regole che poi trovate analizzate alle pagine 2 e 3. Il commento è di Giovanni Negri, vice direttore del Sole 24 Ore, grande esperto, ex responsabile del dorso di norme e tributi. La mossa giusta prima della riforma, quindi il senso è questo: era importante avere queste nuove regole, poi ci vorrebbe una riforma più generale. Vi segnalo dalla prima pagina, dicevo, la notizia finanziaria di ieri, dopo i risultati record di Banca Intesa che abbiamo visto settimana scorsa, l'altro grande gruppo italiano, il secondo gruppo italiano bancario, che è Unicredit, ieri a sua volta pubblicato la semestrale, anche in questo caso molto buona, oltre 1 miliardo di utili, e il CEO, l'amministratore legato Ghizzoni, dice capaci di generare capitale internamente, fiducia sulla ripresa in Italia, quindi nessun panico in vista di magari richieste da parte dell'Unione Europea di fare un aumento di capitale. Unicredit, dice Ghizzoni, è una banca sana, questa semestrale lo dimostra. E vi segnalo anche di politica estera un articolo di Alberto Negri, che è al seguito della missione italiana in Iran, dove abbiamo visto anche ieri ci sono il ministro degli esteri Gentiloni e il ministro Guidi dell'economia, accordo con l'Iran per lo sblocco dei crediti ENI. Questo è uno dei tanti nodi sul tavolo delle relazioni economiche tra Iran e Italia, ed è arrivato, sarebbe arrivato questo accordo, ma ci sono, come abbiamo visto ieri, ci sarebbero molti sviluppi positivi di questo primo avvicinamento tra l'Iran e l'Italia dopo l'accordo sulla fine delle sanzioni economiche che è stato siglato da Obama, ma sapete che quell'accordo adesso è al vaglio del Congresso americano, quindi è stato molto giustamente, se ne è molto parlato, è sicuramente un grande passo avanti nello scacchiere diplomatico mondiale, però per quanto riguarda proprio i dettagli tecnici e per quanto riguarda il ruolo degli Stati Uniti in quell'accordo, dobbiamo appunto aspettare che il Congresso americano si esprima. Il Congresso americano è controllato dal Partito Repubblicano, quindi non dal partito di Obama, e Obama ieri ha fatto ancora un appello perché questo accordo venga ratificato. La prima pagina di Repubblica è sostanzialmente dedicata alla RAI, questione di cui ci occuperemo anche oggi, anche se è probabilmente anche domani, perché manca, ieri si sono sciolti gli ultimi due penultimi nodi, cioè il consigliere eletto dal governo, che l'economista Marco Fortis, quindi l'ottavo consigliere del CDA, e il presidente, che è Monica Maggioni. Manca ancora il direttore generale, il famoso super manager, su cui Milena Gabanelli, per esempio, sul Corriere auspicava ci fosse una scelta dettata solo dalla meritocrazia. Su questo è durissimo il commento di oggi di Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, sulla questione RAI. Si intitola La palude, è molto breve, inizia e finisce in prima pagina, ve lo leggo. Se è vero che la RAI è il termometro del tempo politico che farà, allora si prepara un clima grigio e spento per la parte che resta della legislatura. Semplicemente la governance della più grande azienda culturale del paese è al di sotto di ogni aspettativa. Non c'è azienda nei profili che sono stati scelti e non c'è cultura. Piuttosto solo una lottizzazione asfittica che imprigiona quel che può della televisione pubblica, rinunciando a governarla. Quel che stupisce è infatti la rinuncia a ogni ambizione di cambiamento. Partito per liberare la RAI dalla politica, Renzi ha riprodotto a Viale Mazzini la controfigura rimpicciolita e deformata di un sistema politico allo sbando, con i partiti, ad eccezione dei grillini, capaci soltanto di riprodurre se stessi replicandosi al peggio. Domina l'intesa con Berlusconi, che tratta da capo politico della destra con una mano, mentre con l'altra negozia da capo di Mediaset, continuando così a tenere la RAI sotto l'abituale doppio guinzaglio dei partiti e del duopolio. Nessuno si aspettava rivoluzioni, ma almeno il tentativo di restituire la televisione al mercato, alla concorrenza, a se stessa, attraverso l'indipendenza e l'autonomia. In tutta evidenza è ciò che la politica non vuole. Impaurita e impotente, preferisce occupare con i suoi segnaposto una delle aziende cruciali per quel futuro di cui parla continuamente a vuoto. Il futuro era questo. Ed è un'occasione peggio che perduta, confiscata da un quadro politico che giorno dopo giorno si sta sfarinando. La fotonotizia di Repubblica è però dedicata alla bellissima medaglia d'argento che Federica Pellegrini ha vinto ieri nel giorno del suo compleanno, e sapete che ha stabilito così anche un record, perché è la sesta medaglia di seguito ai mondiali, nessuno come lei, la prima l'aveva vinta quando aveva solo 16 anni. E poi c'è anche naturalmente un accenno all'altro argento, quello andato al nuotatore Paltrinieri, che tra l'altro poi ha una possibilità probabilmente di vincere un'altra medaglia nei prossimi giorni. Anche il Messaggero titola sulla questione RAI, patto sulla RAI c'è la Maggioni. Vi segnalo però dalla prima pagina del Messaggero una notizia che riguarda la famosa relazione di Alfano su Roma Capitale, È già slittato una volta e ora il messaggero ci rivela che slitterà una seconda volta. Intanto continuano le pubblicazioni dei verbali degli interrogatori di Buzzi, che è il grande Salvatore Buzzi, era il grande RAS delle cooperative a Roma ed è in carcere, per, naturalmente con accuse di corruzione per cifre enormi e soprattutto di rapporti con i politici del comune di Roma, della provincia di Roma e della regione Lazio. E da questi verbali spuntano anche nelle parti che vengono pubblicate oggi accuse appunto al comune e alla regione e ai suoi vertici. Ma la fotonotizia invece è dedicata, abbiamo visto ieri i dati dell'organizzazione per i migranti, abbiamo visto che i dati appunto che nei primi 7 mesi ci sono già stati 2.000 morti nel Mediterraneo e ieri è arrivata la notizia di altri 25 morti per un barcone che si è rovesciato al largo della Libia, un bilancio molto provvisorio. E allora il titolo: migranti si ribalta barcone, tragedia perché erano in centinaia a bordo. E a questa notizia dedica la sua apertura L'Avvenire, come aveva fatto la scorsa settimana quando c'era stata un'altra tragedia simile. Il titolo: vite sommerse, si rovescia un barcone con oltre 600 migranti, recuperati 25 cadaveri, ma come vi dicevo è un bilancio molto provvisorio questo perché sono centinaia i dispersi. E vi leggo una parte del trovato bellissimo editoriale di Camillo Ripamonti, ospitato dall'Avvenire. Camillo Ripamonti è il presidente del Centro Astalli, che è un servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia. Vi leggo la prima e l'ultima parte. Cosa convince a salire su una barcaccia insieme ad altre centinaia di persone e sfidare il mare? Cosa spinge un padre a nascondere un figlio in una valigia per passare la frontiera? Cosa muove un fratello a compiere lo stesso gesto e mettere la borsa così preziosa nel portabagagli di un'auto che si sta imbarcando per la Spagna? Cosa costringe a restare appollaiati su uno scoglio per giorni? Chi è così disperato da voler attraversare il canale della Manica a piedi? E queste sono le domande appunto che si pone Camillo Ripamonti e che si cerca a volte di porre ai rifugiati a cui cercano di dare aiuto quando arrivano a Roma o comunque in Italia. E vi leggo poi l'ultima parte di questo intervento. Rischiamo che le generazioni future raccolgano una terra ferita, sporcata dall'odio e dalle guerre che noi abbiamo permesso. Basta con l'illuderci che la nostra principale emergenza sia rappresentata dal numero di persone che giungono in Europa. La principale urgenza è riappropriarsi di un senso di umanità che sembra sfuggirci. Solidarietà, fratellanza, umanità sono una vocazione. È ciò che ciascuno di noi si aspetta di ricevere dall'altro, in qualsiasi tipo di relazione umana. Si tratta di un'aspettativa legittima, di un diritto umano. E allora perché oggi a casa nostra, nella nostra Europa, permettiamo che giovani uomini e donne, spesso anche bambini, in cerca di una vita degna e libera, muoiano al confine dei nostri ciechi egoismi? Punto di domanda e diamoci una risposta. Il manifesto ha la stessa apertura su appunto questo ennesimo naufragio di una barca di migranti. Il titolo è: morti a strascico, 25 morti, 400 persone tratte in salvo, ma l'appello ne mancherebbero quasi 200. Infatti i superstiti hanno raccontato che a bordo di questo barcone erano in 700. L'ennesima tragedia di migranti al largo delle coste libiche e l'Europa resta a guardare. La prima pagina della Stampa, titolo principale dedicato alla RAI, c'è anche un commento molto divertente di Massimo Gramellini, pensione a Raiuccia, perché avete sentito anche nei GR, nelle notizie, anche da ieri sera in realtà, di questi consiglieri 4 hanno superato l'età pensionabile, quindi sono a tutti gli effetti dei pensionati, non potrebbero lavorare in aziende pubbliche. Se lo faranno, secondo la legge attuale, lo dovranno fare solo per un anno e a titolo gratuito. Lo faranno? Punto interrogativo, non si sa, perché la domanda è stata posta, ma nessuno dei 4 ha risposto: sì, lavorerò comunque gratis, certo, per un anno. Quindi vedremo cosa verrà deciso nei prossimi giorni. La notizia è dedicata alle due belle medaglie nel nuoto di cui abbiamo parlato prima, ma vi segnalo, anche perché gli ascoltatori di Radio 24 lo conoscono bene, il commento di Gianluca Nicoletti all'approvazione che c'è stata ieri della legge sull'autismo, che prevede degli aiuti alle famiglie. Però secondo Nicoletti, che lo ricordiamo parla naturalmente anche per esperienza personale, perché ha un figlio autistico e ha anche scritto 2 libri su questa sua esperienza di genitore, ma anche su tutte i contatti che ha avuto con altri genitori, altre persone che hanno malati di autismo in famiglia. Ecco, la legge sull'autismo, ma non basta, e trovate poi il commento continua a pagina 9. Il giornale titola sull'Expo, ieri avete sentito anche nei giorni scorsi, ormai ogni giorno si fanno un po' di numeri su quanti sono effettivamente i biglietti venduti ai visitatori, la furbata, titola il giornale, Expo flop, l'INPS precetta 2 milioni di pensionati, i visitatori latitano e così c'è questo stratagemma per taroccare le presenze. Il commissario Sala naturalmente nega che ci sia alcun tipo di taroccamento, forse siamo a metà dell'Expo che è iniziato all'inizio di maggio e finirà alla fine di aprile, vedremo appunto poi di fare un bilancio il più speriamo veritiero possibile quando appunto terminerà. Ci lasciamo un attimo, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, su quella del giornale in particolare, che ieri forse lo ricorderete, aveva parlato di questa vicenda della figlia del ministro dell'economia Padoan assunta alla Cassa Depositi e Prestiti, che è controllata dal Ministero dell'Economia. E prima tra l'altro aveva lavorato alla SACE, un'altra azienda controllata dal Ministero dell'Economia. Oggi Salvatore Tramontano, vice direttore del giornale, torna su questa questione e fa un parallelo con quello che era successo a un altro famoso figlio di, cioè il famoso figlio di Maurizio Lupi, il ministro delle infrastrutture, che si era poi dimesso perché un imprenditore aveva regalato al figlio per la laurea il famoso famigerato Rolex. E da qui il titolo del commento di Salvatore Tramontano: vale più un Rolex o un lavoro? E appunto il parallelo tra queste due vicende, tra come sono state trattate in maniera diversa, anche solo naturalmente come esposizione mediatica. Appunto questa notizia c'era sul giornale, ricorderete forse invece quanto e su quanti giornali si parlò dell'altra vicenda. Qui c'è un po' il parallelo, poi ognuno può farsi la sua opinione. Continua la bellissima serie di lettere d'amore pubblicate dal giornale in occasione dell'estate, che pubblica ogni giorno una lettera d'amore in generale di uno scrittore o di una scrittrice, poi una ipotetica impossibile replica, ma comunque possibile appunto dalle pagine del giornale, una sorta di gioco invece di uno scrittore, ma comunque di una persona che vive oggi nel tempo e legge quelle parole che vengono da lontano. E allora oggi la lettera è di Virginia Woolf: mi hai reso felice, senza di me rinascerai. Questo è il titolo scelto per la lettera, e la replica impossibile dello scrittore Pietrangelo Buttafuoco: no, sarò solo spettatore della tua assenza. Vi segnalo dal Secolo XIX, che ha come fotonotizia la tragedia del barcone che si è rovesciato in Libia, che naturalmente segue, perché è una vicenda genovese, quella del ragazzo picchiato sull'autobus perché da sei, forse sette giovani alle 3 di notte, durante la notte appunto, su un autobus di Genova, perché la ragazza di uno di questi sei o sette ragazzi li aveva inzigati dicendo: guardate quel gay che mi sta guardando. Sostanzialmente ieri ne ha parlato tanto Irene, avete sentito la questione, anche ne abbiamo parlato anche noi, perché l'autista è un po' accusato di non aver nemmeno chiamato la polizia. E allora l'aggiornamento di cronaca di oggi è che c'è un video dell'aggressione, l'unico indizio è un tatuaggio che avrebbe uno di questi sette bulli, chiamiamolo così, e intanto è stato messo in ferie forzate quel conducente che appunto non diede l'allarme. Libero ha un'interessantissima, come dicevamo prima parlando con Irene, questa notizia dopo l'inchiesta che aveva fatto Libero, forse ne avevamo anche parlato, sui vitalizi di cui ancora godono tantissimi parlamentari e che sono vitalizi, come sappiamo, molto molto sostanziosi. C'è una proposta adesso in Parlamento di abolizione di questo privilegio, firmata da 74 deputati, tutti del PD. Il titolo di Libero è: arriva la legge Ventilizzi, onore a Libero che dà conto di esattamente di come si sta svolgendo la presentazione di questa legge, e scrive testualmente: il centrodestra ha perso l'occasione per intestarsi un provvedimento che gli elettori vogliono. Speriamo almeno che lo voti quando arriverà in aula. Con il commento di Franco Bechis, che è vice direttore di Libero. Il Fatto Quotidiano, tutto dedicato alla questione della RAI, e siccome ieri forse anche giustamente un ascoltatore mi diceva che cito spesso gli editoriali di Travaglio, che è il direttore del Fatto Quotidiano, ma non li leggo, vi leggo la prima parte di oggi, che è molto critico nei confronti sia di questa scelta di fare questo consiglio di amministrazione della RAI agli sgoccioli dell'impegno del Parlamento poco prima, appunto, come abbiamo detto, adesso scattano le ferie del Parlamento, e quindi fa un parallelo tra questa estate del 2015 e l'estate del 1994, quando al governo c'era Berlusconi. L'audace colpo dei soliti noti, scrive Marco Travaglio. Nell'estate del 94, approfittando delle vacanze dei mondiali di calcio negli Stati Uniti, il governo Berlusconi 1 si prese tutto in 2 giorni e 4 mosse. Il 12 luglio cambiò al vertice RAI, piazzando la Moratti al posto degli odiati dai partiti professori. Il 13 luglio convocò il Consiglio dei Ministri durante la semifinale Italia-Bulgaria, varando alla chetichella 3 decreti vergogna: il condono che salvava le imprese coinvolte in Tangentopoli dalla legge Merloni del 1993 sugli appalti, il condono fiscale, pudicamente ribattezzato concordato, e il decreto Biondi, che proibiva la custodia cautelare in carcere per i colletti bianchi e chiudeva violentemente Mani Pulite. Renzi non è B, perché Travaglio, sapete che chiama spesso il Fatto Quotidiano, chiama Berlusconi B con il punto, ma vorrebbe tanto. E sempre in piena estate, nel giro di pochi giorni, nell'ordine, ha ripristinato di fatto l'immunità parlamentare, proclamando che il Parlamento non deve fare il passacarte delle procure e può salvare dalle manette Lazzolini di turno. Ha occupato la RAI dettando da Tokyo un CDA e un direttore generale che più mediocri e obbedienti non si poteva. Infine ha coperto il tutto nominando a presidente, carica per lo più onorifica, la giornalista Monica Maggioni, direttora di RAI News, bella presenza, appena cinquantenne e soprattutto donna. Quindi Travaglio ne ha appunto per tutte, per il centrodestra con Berlusconi, per il centrosinistra con Renzi. L'unità... Questi titoli che non lo so, forse l'unità cerca un po' di imitare il manifesto, non sempre ci riesce. Il titolo è: in autunno cadono non le foglie ma le tasse. Perché ieri il Premier, in conferenza stampa, annunciando sia quello che secondo lui è il successo della nomina di questo CDA, sia l'approvazione della legge sulla pubblica amministrazione con tutte le novità, ha anche detto: vedrete, in autunno daremo seguito alle nostre promesse e taglieremo le tasse. E allora il Premier dice: pronti per la legge di stabilità, dove appunto si decideranno molti di questi tagli, di queste misure. A settembre via il taglio dell'IMU sulla casa. Sapete che un altro grande annuncio è appunto quello del taglio della tassa sulla prima casa. All'interno però, a pagine 2 e 3, molto interessante sulla questione della frana in Cadore, una mappa con il fabbisogno per tutti gli interventi per rimettere in sesto o comunque scongiurare un peggioramento del disastro idrogeologico del nostro paese, divisi per regione. È un piano nazionale che dovrebbe portarci al 2020. Vedremo appunto se ci saranno i fondi, se ci sarà la volontà, se ci sarà la capacità di coordinarsi per fare tutti questi interventi. Al via il piano contro il dissesto, c'è una cifra record per gli smottamenti. Pensate, in Italia ci sono il 70% di quelli mappati in Europa. E ieri, ci racconta Erasmo D'Angelis, che è il direttore dell'unità, c'è stata una prima presentazione di questo piano. A proposito della pubblica amministrazione, effettivamente può essere utile avere tutto sotto controllo così. Dalle pagine 11 alle pagine 14 l'unità spiega a uno speciale pubblica amministrazione una riforma a misura dei cittadini. La Gazzetta dello Sport, meno male, oggi è dedicata al nuoto, quindi ai due argenti, quello vinto da Federica Pellegrini e da Paltrinieri, fede eterna, e all'interno a pagine 2 e 3 proprio la cronaca di questo, e poi ovviamente tutti i risultati e le analisi delle partite di ieri. Veniamo alle pagine interne dei giornali. Abbiamo parlato di spesa pubblica, di taglio dell'IMU. Il Corriere della Sera torna con una pagina di Federico Fubini sul punto sui tagli, spesa pubblica, il piano dei tagli per dare addio alla TASI, la tassa sulla casa. Nel 2016 il governo pensa a una manovra da 23 miliardi con risparmi per 10 miliardi della spending review. Vedremo, perché si continua a parlarne, ci stanno lavorando, come sappiamo, Joram Gutkeld, che non domenica scorsa, quella prima, diede quella famosa intervista a Repubblica in cui diceva che la prima voce su cui bisogna intervenire è la sanità, e poi c'è anche l'altro consigliere economico del Premier, Roberto Perotti, che a sua volta sta lavorando su questa ennesima spending review. Dal Sole 24 Ore però torniamo un po' sulla questione RAI, ma come ieri, che Marco Mele, oltre a spiegare quali erano i nuovi membri del CDA, o meglio il nuovo CDA, ci spiegava anche i conti della RAI con i ricavi e gli utili in calo e i costi in aumento, oggi un altro reality check, come lo chiamano gli anglosassoni, cioè quali sono veramente, al di là delle nomine, i problemi della RAI. E allora, per esempio, Andrea Biondi riepiloga qual è la sfida sulla banda banda larga, perché come sappiamo è in arrivo Netflix, che è un servizio appunto via internet che offre programmi a pagamento, e su questo c'è un'intesa tra Telecom e Mediaset. E poi c'è la Vodafone TV, un'altra rivoluzione che si annuncia. Andrea Bionti ci racconta anche come la governance in Germania e Gran Bretagna, che sono un po' i paesi dove esiste una TV pubblica con canone, con un meccanismo più vicino al nostro, però il potere dei partiti, come c'è in Italia, in quei due paesi non c'è. È un altro reality check, sempre sul Sole 24 Ore, a pagina 5 di Marco Mele. Il primo banco di prova sarà anche la riforma delle news. I profili professionali del neopresidente e del direttore generale favoriranno una programmazione più internazionale, però appunto vedremo, perché il governo ha indicato fra le priorità la trasformazione da azienda di broadcasting a media company capace di produrre su tutte le piattaforme. Dal Sole 24 Ore anche un aggiornamento dalle borse, perché abbiamo visto nei primi due giorni della settimana questo crollo della borsa greca e in particolare dei titoli bancari in Grecia, con però scarse ripercussioni sulle borse europee. Ieri è stato un po' la stessa cosa, cioè le borse europee con tutte queste semestrali che stanno arrivando, per lo più buone, in particolare quelle delle banche ieri in Italia, continuano ad andare bene sulla spinta appunto di questi dati. Quindi gli utili delle banche spingono le borse, questo è il titolo dell'analisi di Andrea Franceschi. I risultati del Big Data il credito rilanciano i listini europei, perché Milano ha guadagnato l'1,87, Madrid l'1,16, Parigi l'1,65 e Francoforte l'1,57. Ma Vittorio Darold ci racconta anche che invece le banche greche per il terzo giorno perdono quasi il 30% alla borsa di Atene. Tsipras però continua a cercare di rassicurare e dice: siamo vicini all'intesa con l'Europa, perché sapete che sì, c'è stata la maratona negoziale, il primo grande sì tra BCE, Commissione Europea e ormai 3 settimane fa e Grecia, però adesso Tsipras deve combattere per far approvare le riforme nel suo Parlamento. Continua naturalmente la guida pratica del Sole, l'iniziativa che è iniziata lunedì, sapete ogni settimana ci sarà un tema, la prima settimana è casa e condominio, i due approfondimenti di oggi che trovate a pagina 34 e 35, per quanto riguarda la casa è dedicato al bonus lavoro e mobili, perché fino al 31 dicembre è possibile ottenere il massimo dei benefici, e per quanto riguarda il condominio c'è un approfondimento su fisco e conti, l'amministratore attesta le spese pagate per la manutenzione e poi eventualmente si possono dedurre dalle nostre dichiarazioni tutti i dettagli, e per farlo appunto in questa guida pratica del Sole. Dalla Repubblica un approfondimento fatto da un inviato sul luogo, Emanuele Lauria, da Termini Merese, l'ex fabbrica dell'auto. Nello stabilimento che avrebbe dovuto trasformare l'economia siciliana, ora ci sono solo addetti alla vigilanza e casse integrati per corsi di qualificazione. Tra l'altro c'è un'analisi del famoso indotto, perché in generale intorno a una grande fabbrica automobilistica c'è sempre un indotto. In questo caso intorno alla grande fabbrica di Termini Merese sono sparite 120 imprese. Quindi un po', se da una parte è vero che l'industria automobilistica si sta riprendendo, lo abbiamo visto nei dati degli ultimi giorni e ieri nei dati del manifatturieri, dove appunto l'industria automobilistica è una di quelle che va meglio, è un po' anche un quadro a macchia di leopardo. In particolare lo stabilimento di Termini Merese è appunto adesso un po' una cattedrale nel deserto. Abbiamo parlato di IMU e naturalmente ricordiamo e continueremo a seguire la questione aperta da una sentenza alla Corte di Cassazione che prevede l'abolizione dell'esenzione per le scuole cattoliche dell'IMU. E invece Repubblica ci parla di come la finanza abbia innescato questa nuova polemica. Adesso, secondo questa interpretazione, anche le piattaforme petrolifere devono pagare ICI e IMU. L'approfondimento a pagina 26 della Repubblica, il caso, insomma. Ci lasciamo un attimo però per le notizie sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli e ben ritrovati per l'ultima parte della nostra rassegna stampa. Eravamo sulle pagine interne dei giornali e vi segnalo un po' due notizie da un po' da mani sul volante. Dal Messaggero c'è un approfondimento su sapete che spesso nei grandi decreti legge vengono inserite molte norme che magari non c'entrano proprio su quello. Ecco, nel maxi emendamento al decreto legge sugli enti locali è stata inserita all'ultimo momento una norma che stabilizza 5.000 precari in Calabria. Il caso dei precari tutti assunti per 38 milioni. E naturalmente è appunto una norma che ha fatto molto discutere, primo perché non si vede bene che cosa c'entri sul decreto, con il decreto sugli enti locali, e però soprattutto è purtroppo l'ennesimo caso in cui vengono inserite delle norme che sono molto, che riguardano dei singoli territori o delle singole situazioni in decreti che vengono spacciati per invece decreti sulle grandi questioni che riguardano tutto il paese. Poi un'altra notizia che torna su come funziona il trasporto pubblico a Roma, ecco, a Roma è già annunciato un altro sciopero. Domani sciopero confermato, il prefetto Gabrielli rinuncia alla linea dura, spiega il Messaggero, se devo forzare preferisco farlo in un altro momento, niente precettazione. Quindi ennesimo sciopero a Roma, a rischio bus e treni e ennesimi disagi per tutti i passeggeri. L'Avvenire è quello che dà più spazio al passaggio della legge sull'autismo. Ieri appunto è stata approvata questa legge nazionale, c'è la cronaca, per la prima volta in Italia c'è una legge di questo tipo, c'è un'intervista a uno dei relatori del decreto di questa legge sull'autismo, che si chiama, è un senatore del gruppo Autonomie, Lucio Romano, che spiega perché comunque, anche se il nodo è che non ci sono, ed è un po' anche quello che dice Nicoletti nel suo articolo, non ci sono ancora dei fondi, degli stanziamenti precisi, e naturalmente se si vuole dare un sostegno alle famiglie la parte economica è fondamentale, però Romano dice se non altro è una norma che ha un profondo valore culturale. E poi una spiegazione della questione da un punto di vista medico con il parere di un neuropsichiatra, Stefano Vicari: così si può far luce su una patologia nascosta, quindi un po' lo stato dell'arte sulla ricerca su questa malattia ancora molto misteriosa. L'Avvenire naturalmente dà molto spazio, scelgo appunto di segnalare dall'Avvenire, ma la notizia la trovate su tutti i giornali, sull'intervento del Papa ieri sui divorziati risposati, e il senso del suo intervento, che Avvenire che sintetizza nel titolo, è no alle porte chiuse. Chi vive una nuova unione dopo il matrimonio fallito non è scomunicato e non deve essere trattato come tale. Dalla stampa vi segnalo abbiamo parlato in questi giorni dell'anniversario delle due bombe sganciate su Hiroshima e Nagasaki il 6 e il 9 agosto del 1945, che posero di fatto fine alla Seconda Guerra Mondiale. Ci sono ancora però tantissime armi nucleari nel mondo, e Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme, ci racconta: missili e bombe sporche, così stati e terroristi inseguono l'atomica, armi sempre più sofisticate, programmi segreti, e intanto aumentano i furti di materiale radioattivo. Poi c'è l'altra questione di cui abbiamo parlato un po' nei giorni scorsi, che sono l'inizio delle due campagne elettorali, quella dei candidati repubblicani e quella dei candidati democratici per le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Ci sarà presto un dibattito televisivo tra i candidati repubblicani, che sono in questo momento 17, non si sa se tutti e 17 arriveranno alle primarie, forse qualcuno rinuncerà prima, intanto però sono 17, ci saranno due dibattiti. Il manifesto fa uno specchietto dei profili di questi 17, concorrenti, e appunto concorrenti li chiama perché è un po' un reality, secondo il manifesto, reality repubblicano, entrano in concorrenti. C'è poi un'analisi di Luca Celada da Los Angeles su come si stanno appunto muovendo le campagne elettorali di tutti. Dal giornale un approfondimento molto interessante di Marzio Mian su il business dell'ambiente, chi guadagna con il cambiamento del clima. È un reportage da Portland negli Stati Uniti. Il riscaldamento globale diventa un'opportunità di sviluppo, dal Maine, dove esplode la pesca di aragoste, all'Islanda, che scroppa il turismo di massa grazie alle temperature più miti. Sul caso Crocetta invece su Libero un approfondimento, anche questo un po' una vicenda di cronaca che ci siamo un po' persi per strada, quella della famosa intercettazione fantasma tra il governatore della Sicilia Crocetta e il suo medico Matteo Tutino, che in questo momento è agli arresti domiciliari. Caso Crocetta: si indaga su un consigliere PD, la procura di Palermo individua chi ha diffuso le intercettazioni. E poi Libero dà anche conto della valanga di proteste dei lettori di Libero contro l'Espresso e questo modo che ha scelto di fare questa grande rivelazione di questa intercettazione che poi non si trova e che i giornalisti dell'Espresso hanno detto di aver solo ascoltato e poi di aver un po' dimenticato completamente la questione, forse anche un po' di aver evitato completamente il mea culpa giornalistico, se non altro su come si è svolta questa vicenda. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo un'intervista al presidente dell'Istat Giorgio Alleva. Da Poletti è il ministro del lavoro, uso politico dei dati, disorienta i cittadini. Ci sono state tante polemiche sui dati Istat, su come vengono interpretati, spiegati, e adesso appunto parla il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, che tra l'altro è stato nominato da questo governo un anno fa, ma non risparmia le critiche a uno dei ministri di questo governo, in particolare Poletti, e spiega che ci deve essere una cura maggiore nello spiegare i dati. E poi c'è una lettera sempre sul Fatto mandata da Ignazio Marino, sindaco di Roma, che risponde all'articolo di, ne avevamo anche parlato, di Giorgio Meletti, che individuava le grandi quattro questioni su cui comunque il sindaco, per quanto alle prese con una giunta da poco rifatta e con tante polemiche interne e esterne al partito, su queste quattro cose secondo Giorgio Meletti si potevano attuare dei miglioramenti concreti, e Marino risponde a questo articolo che era molto critico: ma che ultima fermata, io non ho padrini, la mia amministrazione non è toccata dallo scandalo e la città comunque si è rimessa in cammino. Dal Fatto vi segnalo un ultimo articolo un pochino più leggero, lo scrive Andrea Scanzi. Forse avrete sentito negli ultimi giorni questa classifica dei calciatori sopravvalutati che ha fatto il Daily Telegraph, un quotidiano britannico, e ha fatto discutere che in questa classifica fosse stato incluso anche Baggio. Allora il Fatto ha deciso, un po' come gioco estivo, di invitare i lettori a mandare al sito l'elenco dei sopravvalutati di tutti i settori, e allora Andrea Scanzi si incarica di fare un po' l'introduzione di questo gioco estivo. Sopravvalutati, ecco i nostri, ma giù le mani da Baggio. Il fantasista nell'elenco dei giocatori sovrastimati stilato da un quotidiano britannico, allucinante. Le regole per il gioco del Fatto: italiani in attività, appartenenti a sport, musica, lettere, cinema e spettacolo, niente politici o giornalisti. Insomma, chi vuol partecipare può andare sul sito del Fatto, da cui vi segnalo anche l'ultimo articolo, un'intervista a Roberto Saviano. La fama genera odio, gli scrittori italiani tra loro si detestano. In realtà Saviano parla di tantissime cose, del suo rapporto con la scrittura, ma anche di come si sente il grande denunciatore dei mali italiani, e insomma ci racconta un po' la sua vita, e sicuramente ha un'alta opinione del suo ruolo nella società italiana, e che lui svolge, dice, soprattutto facendo lo scrittore, ma parla anche di altre cose. Era un po' l'ultima segnalazione, anche se avrei ancora altre cose, ma giustamente è anche il tempo di Irene per introdurci ai suoi spunti di vista, che arrivano tra poco.